GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Sì a Cassano e a Del Piero, no a Inzaghi e Oddo. Queste le scelte di Roberto Donadoni, il CT azzurro che ha convocato 24 giocatori in vista degli europei di Austria e Svizzera. A partecipare alla spedizione però saranno solo in 23. Intanto per Donadoni c'è anche il prolungamento del contratto fino ai mondiali di Sudafrica 2010. Il presidente della Federcalcio Abete: abbiamo concordato sul rinnovo del contratto biennale che ci porterà a dopo i mondiali Sudafrica, con una clausola libera reciproca di rescissione e ovviamente nel termine massimo di 10 giorni dal momento in cui la nazionale italiana, auspicabilmente il più tardi possibile, completerà il suo percorso agonistico in Austria-Svizzera. Quindi noi andremo comunque agli europei con il contratto rinnovato. E oggi si gioca la finale della Champions League, che per la prima volta vede di fronte due squadre inglesi. In campo a Mosca Manchester United e Chelsea, occhi puntati su Lampard, centrocampista dei Blues, dato in arrivo all'Inter. Il presidente dell'UEFA, Platini, la vede così: è sempre il campo che dice la verità, e dunque se questi due sono arrivati qua vuol dire che sono stati i due migliori. Sarà la vincitrice che sarà la regina dell'Europa. E da Cannes arriva anche il pronostico di Diego Armando Maradona, che vede il Manchester campione. Dico Manchester United per Carlos Tevez. Vengo amigos del Chelsea, però dico al Manchester United. Per il Giro d'Italia va a Bruseghin la cronometro da Pesaro a Urbino. Visconti conserva la maglia rosa. Tra i big il migliore è lo spagnolo Contador. Staccati di 2 minuti Riccò e Di Luca. Sentiamo proprio Bruseghin. Sono felicissimo, ero venuto al Giro principalmente per vincere una tappa e quindi il mio giro è già ottimo. Adesso vediamo di riuscire a fare una buona classifica e arrivare magari. E oggi tappa sulle strade che furono di Marco Pantani. 200 km difficili e insidiosi da Urbania a Cesena, non un metro di pianura, un continuo saliscendi dalle Marche all'Emilia-Romagna. A metà strada il Monte Carpegna, dove Marco Pantani abitualmente si allenava prima dei grandi impegni agonistici. Tappa per attaccanti, ricca di trabocchetti e punti insidiosi. In maglia rosa parte sempre il siciliano di Toscana Giovanni Visconti, il delfino di Paolo Bettini che studia da campione. Per lui ora l'obiettivo di questo giro è superare indenne la tappa odierna per poi portare la maglia ai piedi delle grandi montagne. Sabato c'è l'Alpe di Panpiago, quello per lui potrebbe essere il traguardo ideale per poter sfilare la maglia rosa. Uno che invece alla rosa ci pensa e non scherza affatto è Alberto Contador, lo spagnolo vincitore di un Tour de France chiamato all'ultimo a correre il giro. La Crono di ieri ha detto che lui qui non è venuto per fare il turista, ma è qui per portarsi via il souvenir più ambito, la maglia rosa di Milano. Per questo stagio Giro 24 Sole 24 Ore, Urbania. E chiudiamo con la pallanuoto femminile. Per la 16ª volta lo scudetto va a Catania. Le siciliane, già vincitrici della Coppa Campioni, hanno battuto 9-6 la Fiorentina in gara 4 di finale. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.